notte a mezzo aprir, e azzurro il ciel, la luna senza me. Tutto è languor, pace, mistero, amor, ma è mio perché perché?